Scusami se ormai non credo più a favole d'amore. Piove ancora forte dentro me, senza mai uscire il sole. Io non so cos'è l'amore, c'è qualcosa di speciale. Io ti guardo e gli occhi tuoi si abbracciano coi miei. Se costruirai una casa dentro me e ci metterai l'amore, e porterai una stella insieme a te a spasso nel mio cuore. Non so brava che parola, un bel gesto può bastare. Poi l'amore, quando amore fa tutto da sé. Non era mai successo, innamorato verso un'amore di te. Perché ti sento addosso, ti voglio ad ogni costo. Non è un peccato, siamo solo innamorata. Mi serve tempo adesso, capire se è diverso. E chi ci sta dentro, quando vorrai il mio cuore, fidarsi del tuo amore. Io sarò disposta a darti fino in fondo tutto ciò che ho. Quante volte io vorrei fidarmi di un amore, ma c'è una montagna dentro me di amaro e di dolore. Ti cancellerò d'amore tutto quello che fa male, e ti aspetterò fino a quando tu vorrai. Non era mai successo, innamorato perso, innamorato di te. Perché ti sento addosso, ti voglio ad ogni costo. Non è un peccato, siamo solo innamorata. Mi serve tempo adesso, capire se è diverso. E chi c'è stato già, quando vorrai il mio cuore, fidarsi del tuo amore. Io sono disposta a darti fino in fondo tutto ciò che ho. Tempo adesso, capire se è diverso. E chi c'è stato già, quando vorrai il mio cuore, fidarsi del tuo amore. Io sarò disposta a darti fino in fondo tutto ciò che ho.